Canto 9 della Divina Commedia. Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto 9. La concubina di Titone antico già s'imbiancava al balzo d'oriente fuor delle braccia del suo dolce amico. Di gemme la sua fronte era lucente, posta in figura del freddo animale che con la coda percuote la gente. E la notte de passi con che sale, fatti avea due nel luogo ov'eravamo, e il terzo già chinavan giuso l'ale. Quand'io, che meco avea di quel d'Adamo, vinto dal sonno in sull'erba inchinai, là ve già tutti e cinque sedevamo. Nell'ora che comincia i tristi lai, la rondinella presso alla mattina, forse a memoria dei suoi primi guai, e che la mente, nostra pellegrina, più dalla carne e men da pensier presa, alle sue vision quasi divina, in sogno mi parea veder sospesa un'aquila nel ciel con penne d'oro, con l'ali aperte e da calare intesa. Ed esser mi parea là dove fuor abbandonati i suoi da Ganimede, quando fu ratto al sommo concistoro. Fra me pensava, forse questa fiede è pur qui per uso, e forse d'altro loco disdegna di portarne suso in piede. Poi mi parea che più rotata un poco, terribil come folgor discendesse, e me rapisse suso infino al foco. Ivi pareva ch'ella ed io ardesse, e sì lo incendio immaginato cosse, che convenne che il sonno si rompesse. Non altrimenti Achille si riscosse, gli occhi svegliati rivolgendo in giro, e non sapendo là dove si fosse, quando la madre, da Chirone a Schiro, trafigò lui dormendo in le sue braccia, là onde poi li greci il dipartiro. Che mi scossio sì, come dalla faccia mi fuggio il sonno e diventai smorto, come fa l'uom che spaventato agghiaccia. Da lato m'era solo il mio conforto, e il sole era alto già più di 2 ore, e il viso m'era alla marina torto. «Non aver tema», disse il mio signore, «fatti sicur che noi siamo a buon punto, non stringer, ma rallarga ogni vigore. Tu sei omai al purgatorio giunto, vedi là il balzo che il chiude d'intorno, vedi l'entrata là ve par disgiunto. Dianzi, nell'alba che precede al giorno, quando l'anima tua dentro dormia sopra i fiori onde laggiù adorno, venne una donna e disse: «I son Lucia, lasciatemi pigliar costui che dorme, sì l'agevolerò per la sua via». Sordella rimase e l'altra gentil forme. Ella ti tolse e come il dì fu chiaro, sen venne suso ed io per le sue orme. Qui ti posò, e pria mi dimostraro gli occhi suoi belli, quell'entrata aperta. Poi ella e il sonno ad una se n'andaro. A guisa d'uom che in dubbio si raccerta, e che muti in conforto sua paura, poi che la verità gli è discoverta, mi cambia io. E come senza cura videmi il duca mio, su per lo balzo si mosse, ed io di retro inver l'altura. Lettor, tu vedi ben com'io innalzo la mia materia, e però con più arte non ti maravigliar se io la rincalzo. Noi ci appressammo ed eravamo in parte che là dove pareami in prima un rotto, pur come un fesso che muro di parte, vidi una porta, e 3 gradi di sotto per gire ad essa di color diversi ed un portier ch'ancor non facea motto. E come l'occhio più e più v'apersi, vidi il seder sopra il grado soprano tal nella faccia ch'io non lo soffersi. Ed una spada nuda aveva in mano che rifletteva i raggi sì ver noi ch'io dirizzava spesso il viso in vano. «Ditel Costinci, che volete voi?» cominciò egli a dire. «Ov'è la scorta? Guardate che il venir su non vi noi!» «Donna del ciel, di queste cose accorta», rispose il mio maestro a lui, «pur dianzi ne disse, andate là, quivi è la porta». «Ed ella i passi vostri in bene avanzi», ricominciò il cortese portinaio, «venite dunque ai nostri gradi innanzi». Là ne venimmo, e lo scaglion primaio, bianco marmo era, sì pulito e terso, ch'io mi specchiava in esso qual io paio. Era il secondo tinto, più che perso, d'una pietrina ruvida ed arsiccia, crepata per lungo e per traverso. Lo terzo, che di sopra s'ammassiccia, porfido mi parea, sì fiammeggiante come sangue che fuor di vena spiccia. Sopra questo teneva ambo le piante l'angelo di Dio, sedendo in sulla soglia, che mi sembiava pietra di diamante. Per di tre gradi, su di buona voglia, mi trasse al duca mio, dicendo, «Chiedi umilemente che il serrame scioglia». Divoto mi gittai a santi piedi. Misericordia chiesi che m'aprisse, ma pria nel petto tre fiate mi diedi. Sette pi nella fronte mi descrisse col punton della spada e «fa che lavi quando sei dentro queste piaghe», disse. «Cenere o terra che secca si cavi d'un color fora con suo vestimento». E di sotto da quel trasse due chiavi, l'una era d'oro e l'altra era d'argento. Pria con la bianca e poscia con la gialla fece la porta sì ch'io fui contento. «Quandunque l'una d'este chiavi falla, che non si volga dritta per la toppa», disse egli a noi, «non s'apre questa calla. Più cara è l'una, ma l'altra vuol troppa d'arte e d'ingegno avante che di serri, perché l'è quella che il nodo disgroppa. Da Pier le tengo, e dissemi ch'io erri anzi ad aprir ch'a tenerla serrata, pur che la gente a piedi mi s'atterri». Poi pinse l'uscio alla porta sacrata, dicendo, «Entrate, ma facciovi accorti che di fuor torna chi indietro si guata». E quando fur ne cardini distorti gli spigoli di quella regge sacra che di metallo son sonanti e forti, non ruggio sì, né si mostrò sì acra Tarpeia come tolto le fu il buono metello, perché poi rimase macra. Io mi rivolsi attento al primo tuono e «Te Deum laudamus» mi parea udire in voce mista al dolce suono. Tale immagine, appunto, mi rendea ciò che io udiva, qual prendersi suole quando a cantar con organi si stea. Corsi or no sentendon le parole. Fine del canto 9.